passan tante cose, come un soffio passa gioventù. Ma un amore vero, semplice e sincero, può durar la vita e più. Tu non mi lascerai perché ti voglio bene, tanto, tanto bene che se vivo è sol per te. E non tremar giammai se un'ombra sopravviene, dal tuo cuor la scaccerà la mia sincerità. È tanto bello, dolcezza mia, l'amor che vive di poesia. Tu non mi lascerai perché ti voglio bene, tanto, tanto bene che se vivo è sol per te. Se vivo e sol